işte. Kam talem marishte. Dam kemal endes on. Don hun. Yemesim marishte. Donc il me a tourina oh la tourina cha donc il me a Oh.